get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Quella che vi accingete ad ascoltare è la nostra 295esima trasmissione. Per la puntata odierna abbiamo deciso di fare una sorta di reportage della presentazione del libro di Alessia Ballini, dal titolo Virginia Woolf, ho comprato la mia libertà, che noi del CLR abbiamo presentato recentemente alla Casa Internazionale delle Donne. Nel sonoro che abbiamo montato ascolterete le voci di Elena Biaggini e Giovanna Olivieri che, insieme a Lucilla, ci hanno permesso la realizzazione di questa presentazione, purtroppo postuma, come sentirete dal sonoro. Ci auguriamo la troviate interessante, almeno quanto noi, quindi buon ascolto a voi. Allora, intanto buonasera a tutte, benvenute nonostante il tempo, che non è stato molto clemente con noi stasera, però insomma. A noi del coordinamento lesbiche romane premeva molto presentare questo libro, perché per vari motivi. Un motivo è ovviamente quello di onorare la memoria di Alessia, che è stata una donna molto forte in politica e che ha mostrato una grande generosità nel suo stare sulla scena pubblica e politica. Ed è stata sindaco del suo paese, ed è stata assessore alla provincia di Firenze, ed è stata consigliera regionale. E tra le passioni, come leggerete poi per chi sarà interessato e vorrà il libro, tra le passioni di Alessia, oltre alla politica, c'erano le donne, c'erano i diritti della comunità GLBT e non solo, c'era poi Virginia Woolf, che è stata appunto una delle sue grandi passioni politiche. Da quello che io ho scoperto leggendo il libro, questa passione l'ha portata molto lontano, cioè nel senso che questa collana è una collana che lei ha voluto fortemente, che è nata grazie alla collaborazione dell'assessorato alle pari opportunità e dell'università, e la collana si chiama Il genio femminile, e questa la dice lunga, e quindi ancora di più ci sembra importante presentare questo libro, perché l'interesse di questa collana è quello di far conoscere le donne autrici o le donne che a vari livelli in letteratura, nell'arte, eccetera, si sono spese e sono state sulle scene, insomma, no? Ma che diventano sempre minori le donne, no? Rispetto ad altri. Quindi ecco, a questo punto quest'è, insomma, questo libro, io che non sono una wolfista, quindi che ho letto per diletto alcuni libri di Virginia Woolf e che straordinariamente rispetto alla mia indole mi sono appassionata più ai suoi saggi che non ai suoi romanzi, e l'ho trovata bizzarra come cosa, perché normalmente io i saggi non li leggo così volentieri, li leggo se devo, mentre i romanzi li leggo molto volentieri, no? Ecco, in questo caso, per quello che riguarda Virginia Woolf, io ho letto più volentieri e ho trovato immediati che mi toccavano immediatamente nel profondo, e sono stati saggi. Quindi non mi dilungo, perché tanto non saprei che altro dire, e lascio invece la parola alle due esperte che presento rapidamente. Una è Elena Biaggini, che sapete essere una donna in politica da molto tempo all'interno del movimento GLBT, ha fatto tantissime cose, per esempio con Novat e quindi con Azione Gay e Lesbica a Firenze, all'interno adesso di Radio Onda Rossa e quindi del martedì femminista e lesbica autogestito, e tante altre cose. Ed è stata una grande amica di Alessia, quindi poi lei vi parlerà di alcuni aspetti della produzione. Accanto alla mia destra, come potete vedere, ho Giovanna Olivieri, amica e compagna da tantissimi anni su tanti fronti. Abbiamo condiviso battaglie e non solo, anche momenti ludici e straordinari, e ancora facciamo tantissime collaborazioni, perché insieme collaboriamo all'interno del Centro Femminista Separatista. E mentre Giovanna, appunto, Giovanna Olivieri qui cura gli archivi lesbici e gli archivi, archivia per la precisione, qui alla Casa Internazionale, e questo il lavoro della memoria è uno dei lavori che con più accanimento persegue Giovanna. È una wolfista, quindi wolfiana, scusate, me le piace di più, e io tranquillamente mi adeguo, e ci dirà, ci svelerà alcuni segreti che sono contenuti all'interno di questo libro. Quindi do la parola intanto a Elena, e poi sarà un po' un ping pong, va bene? Buonasera a tutte. Innanzitutto grazie al CLR per avermi invitato, ma io sono un'imbucata a questo tavolo, cioè questo è una cosa molto insomma, che risulterà molto evidente. Non vi preoccupate, cioè, che c'è qualcuno che parla di Virginia Woolf a questo tavolo, perché qui si fa tutto questo gioco di scansamento a cui partecipo anch'io, cioè nel senso che io non sono un'esperta di Virginia Woolf, ho letto alcuni dei suoi libri e basta, questo è il mio rapporto con Virginia Woolf. Però sono a questo tavolo, suppongo, sì, sono a questo tavolo insomma per la relazione che è stata amicale e politica con Alessia Ballini, che è l'autrice di questo libro, di cui continuiamo a parlare al passato. L'avrete intuito perché Alessia non c'è più, insomma è morta nel 2011, e questo libro è uscito dopo, è stato stampato in sua memoria, diciamo. Alessia era nel 69, noi eravamo coetanee, è morta di cancro, e ci tengo a dire questa cosa perché Alessia aveva fatto della sua malattia un fatto pubblico, nel senso che ne aveva scritto sui giornali, nel senso che ha partecipato a iniziative insomma per la raccolta dei fondi per la lotta al cancro, nel senso appunto che ne aveva fatto un fatto pubblico, politico, come di altri aspetti della sua vita, e quindi ritengo che sia rilevante anche dirlo, insomma, anche perché nel senso, noi, io e Alessia, anche Valeria è qui oggi, eccetera, ci siamo conosciute molto giovani all'università, il rapporto poi negli anni ovviamente è cambiato come cambiano i rapporti. Per me è stato molto rilevante nella mia concezione di me stessa, della vita, della malattia, della salute, vedere il rapporto, cioè come Alessia ha gestito se stessa in quei due anni, standole vicino, perché per me è stato un esempio di autodeterminazione molto significativo a cui io ho avuto accesso, diciamo. Detto questo libro è la tesi di laurea di Alessia, quindi questo libro è uscito nel 2013, ma è un libro che è stato scritto nel 98, quindi questo lo dico anche perché chi in sala appunto è un'esperta di Virginia Woolf, nella bibliografia probabilmente troverà dei vuoti, nel senso che quello che è uscito dopo il 98 ovviamente non c'è, nel senso che chi ha deciso di dare alle stampe questo libro, che questa era la tesi con cui appunto Alessia si è laureata nel 1998, come tesi si intitolava Writing the Woman Artist, Virginia Woolf e la professione di scrittrice. Fra l'altro Alessia si è laureata con questa tesi in letteratura inglese, ma da lettere, lei non faceva lingue, faceva lettere. appunto si è laureata con questa tesi e poi è rimasta là la tesi, cioè in questi 15 anni, fino a che appunto dopo che lei se n'è andata, sia quella che era stata la sua relatrice di tesi, Ornella De Zordo, su cui magari spendo due parole anche per, così, per raccontare un po' in che clima è nata questa tesi, sia altre esponenti della Società Italiana delle Letterate, insomma si sono mosse per far pubblicare questo testo all'interno di questa collana, e come diceva giustamente prima Lucilla, appunto aveva contribuito ad aprire Alessia negli anni in cui era stata in provincia, dove aveva assessorato sia alle politiche sociali che alle pari opportunità. Però appunto si tratta di una tesi che invece, come le tesi della maggior parte di noi, insomma rimangono là una volta che sono state discusse e hanno permesso di laurearsi, insomma. Alessia appunto frequentava lettere e fra l'altro ci si è iscritta con un paio d'anni di ritardo rispetto alla sua età anagrafica, nel senso che prima era andata a lavorare, poi aveva deciso di tornare all'università, eccetera, e erano anni quelli in cui lei decise poi su cosa avrebbe fatto la tesi, in cui all'Università di Firenze, che era appunto l'Ateneo che frequentavamo, ci fu a lettere un minimo di fermento rispetto a gender studies e anche letteratura omosessuale o LGBT, non saprei come definirla, meglio nel senso che da una parte arrivò all'Università di Firenze Liana Borghi, che prima lavorava, che forse molti di voi conosceranno, prima lavorava a Bologna, l'Ornella De Zordo fece un corso su Maurice de Foster in quegli anni e poi dopo iniziò con dei corsi sul modernismo degli anni 20, in particolare sulle donne del modernismo e Virginia Woolf, eccetera. Io frequentavo tutto un altro ambito di studi rispetto agli studi di letteratura inglese, anglo-americana, eccetera, però mi ricordo, la dirò così a battuta, che tutte le lesbiche andavano a seguire queste lezioni, tanto che a volte ci andavo pure io nonostante facessi lettere classiche, perché era diventata una specie di happening sostanzialmente, e comunque era dove passava un po' il nuovo, diciamo, ecco. E in quell'ambito Alessia Ballini decise prima di fare una tesi su Janet Winterson, su cui ebbe un po' di problemi a portarla avanti, e poi passò appunto a questa tesi su Virginia Woolf, con un taglio di cui parlerà senz'altro molto meglio e più approfonditamente di me Giovanna, ma diciamo che sono aspetti specifici della Woolf, quelli che Alessia tratta in questo libro. Il libro si intitola Virginia Woolf, ho comprato la mia libertà, che di fatto è un paragrafo del libro, perché appunto la tesi in realtà si intitolava, come vi dicevo prima, la professione di scrittrice, ed è una citazione dalla Woolf stessa, perché è un libro non sulla scrittura, non sui romanzi di Virginia Woolf, non sulla letteratura, ma sugli scritti civili, politici, di giornalista, e quindi essenzialmente Alessia indaga in questo libro diari, lettere, articoli pubblicati sui giornali, eccetera, non i romanzi, casomai una stanza tutta per sé, e le tre Guinee fanno invece parte del corpus di questo libro. È un libro diviso in quattro capitoli. La scrittura e l'etica della professione è il primo, e ripeto, io dirò proprio tre parole, poi Giovanna immagino che potrà approfondire molto meglio di me. In questo primo capitolo si tratta appunto di come, anzi vi dirò come io l'ho letto, insomma, questo capitolo, di come la Woolf costruisce mattone su mattone il suo ruolo di professionista della scrittura, partendo da una situazione, cioè l'Inghilterra degli anni 20, in cui non era dato il posizionarsi come professionista per le donne. Il secondo capitolo si intitola Al centro e ai margini della società, l'artista come outsider, e qui appunto si parla della di come Virginia Woolf si colloca all'interno di Bloomsbury, che è l'ambiente intellettuale che lei ha scelto, quello del modernismo, ma da cui si distacca anche spesso per radicalità di posizioni su alcuni argomenti, il pacifismo, le donne, eccetera, e la scelta appunto di essere un outsider, cioè di essere, insomma, credo che la parola sia abbastanza significativa di per sé, ma insomma quella di stare fuori sostanzialmente dal contesto politico, dal contesto politico, ma non in silenzio. Questa credo che sia, si possa sintetizzare così. Poi c'è un capitolo specifico su Bloomsbury che si intitola Bloomsbury, Mentori e Muse, in cui si arriva insomma a definire come Virginia Woolf interpreta la figura della musa, quindi non come appunto una figurina silenziosa e non se stessa, come musa, ma le donne che incontra, insomma, ma invece come soggetti attivi, insomma. E poi l'ultimo, la madre dell'artista, ruoli e proiezioni del femminile. Queste appunto sono le quattro sezioni di questa che era una tesi che non è stata sostanzialmente quasi toccata nel suo passaggio alle stampe, nell'imbarazzo di chi la doveva riaggiustare, non riaggiustare, in un momento in cui appunto Alessia già non c'era più. Di fatto è stato fatto un editing leggerissimo, quasi inesistente, e quindi è la tesi di fatto, che se si toglie il fatto che ci sono molte citazioni in lingua, per il resto però è molto leggibile, insomma, non ha un... le citazioni in inglese sono in inglese, non sono state tradotte. E appunto, per il resto è la tesi, non c'è niente di più. Ci sono poi, c'è un piccolo inserto fotografico, un paio di foto molto famose di Virginia Woolf e un piccolo inserto fotografico anche su Alessia, su un suo viaggio nei luoghi della Woolf sostanzialmente. Io credo che mi potrei anche fermare qui. Questa tesi ha un pregio quasi unico, come spesso l'hanno le tesi, perché poi sono veramente gli unici momenti di ricerca vera che ci possiamo permettere in questi tempi di corsa, no? Perché uno fa la tesi, sta 7-8 mesi a lavorare a un argomento e fa veramente ricerca. E ha un pregio importante perché Virginia Woolf ha un una serie di appassionati, cultori, studiosi, che però sono quasi tutti di matrice anglo-americana, quindi in Italia esiste pochissimo. Sapete che bisogna aspettare gli anni 70 e la tartaruga per pubblicare alcuni dei saggi più importanti, tipo Una stanza tutta per sé o Le preghiere, che ha avuto anche un'introduzione della Muraro, no? Mentre qualche romanzo era già arrivato, ma tutto il corpus, diciamo così, degli studi, degli scritti sia della Woolf sia proprio della cosiddetta generazione dei gender studies, in italiano ci sono veramente molto pochi, molto ristretti. E invece Alessia ha fatto proprio questo grosso lavoro. Io l'ho conosciuta molto giovane, nei primi anni 90, mi ricordo che la prima cosa fu un'intervista per la radio locale che mi voleva intervistare, poi abbiamo fatto tante cose assieme, le settimane eccetera, e io nel 90 avevo fatto una mostra, e nel 92 avevo pubblicato Lady Almanac, in cui c'è una parte diciamo abbastanza importante sulla Woolf, perché la Woolf era stato il centro, diciamo, della rete di relazione che aveva indagato rispetto al mondo lesbico di Londra. E quindi lei era rimasta molto colpita da questa massa di informazioni, per cui ci fu un po' questo lavoro in cui io gli avevo dato dei libri, dei suggerimenti, dei tagli di giornali, eccetera. E quindi, insomma, sono stata molto colpita. Io poi, ovviamente, non era andata alla presentazione della tesi quando mi è arrivata questa pubblicazione, perché riesce, ovviamente non poteva cimentarsi in uno studio critico di tutto il lavoro della Woolf, perché era impossibile, però è veramente un lavoro prezioso, perché in qualche modo diciamo, rende noto e quindi divulga una serie di studi critici che sono stati fatti, sapete, nelle tesi si citano molto gli studi critici di altre persone, per cui dà proprio un'idea della Woolf che in Italia è abbastanza particolare, abbastanza nuova. Quindi questo lavoro della Woolf, questo lavoro sulla Woolf richiede un minimo diciamo, di nota biografica sulla Woolf, perché non tutti naturalmente ce l'hanno chiara. Sapete che Woolf si suicida, per esempio, no? Questo lo sanno quasi tutti, a 61 anni praticamente, durante la guerra, con una serie di problemi, e questa è una cosa che, insomma, ha fatto star male tutte quelle che l'hanno amata, no? Perché invece di produrre altre cose non si è suicidata. E in realtà dietro a questo suicidio c'è una storia personale che sono alla base sia della sua concezione della donna artista, sia del suo rapporto con quello che viene chiamato il femminismo wolfiano, che è un femminismo molto particolare, e sia quello che riguarda la sua espressione di donna artista all'interno di un certo periodo storico, no? E la Woolf nasce in una famiglia in cui i genitori, che erano della borghesia colta da parte di padre, che era già stato sposato e aveva una figlia che si chiamava Laura, quindi che aveva 7 anni quando il padre sposò la vedova, che invece ne aveva 3, quindi questo matrimonio portò un assemblaggio di due nuclei familiari in cui la madre di Virginia aveva 3 figli, 2 maschi e 1 femmina, che erano già abbastanza cresciuti, e poi insieme questi 2 ne fecero altri 4 figli, quindi una famiglia di 8 persone con vari e diversi livelli di età. I figli nati dal matrimonio erano 4, di cui Vanessa, che era la più grande, Toby subito dopo, e poi c'era Virginia e l'ultimo che era Adrian, quindi questi sono i 4 nuovi Stephen. In questa famiglia, diciamo così, il primo grande trauma è la morte della madre. A 49 anni muore dopo aver appunto accudito per una vita 8 figli, parenti, il tè vittoriano, eccetera, eccetera, e soprattutto il suo lavoro. All'epoca non c'era un concetto dell'assistenza, ma della beneficenza, quindi lei aveva un settore molto importante di aiuto ai malati, no? La madre spariva spesso per intere settimane da casa perché andava a fare suo servizio di beneficenza, no? E e quindi questo è il primo, come si chiama in inglese, breakdown, che noi potremmo chiamarlo la crisi, l'esaurimento nervoso, eccetera, della Wolf, perché quando muore la madre, lei ha 13 anni, e sparisce, diciamo così, questa figura che teneva insieme tutta questa numerosa famiglia e soprattutto aveva una funzione calmieratrice, diciamo, su un padre egoista, esigente, che fornì naturalmente a Virginia tanti stimoli intellettuali, ma era una persona estremamente difficile da trattare. In questa famiglia naturalmente la prima sacrificata fu la sorellastra Stella, che era più grande, aveva circa 20 anni, che quindi fu inglobata a prendere il posto della madre. E questa seconda madre, che è Stella, dopo circa 2 anni dalla morte del padre, con tutta una storia che adesso sintetizzo moltissimo, si sposa e parte per il viaggio di nozze, torna dal viaggio di nozze ammalata e muore quasi subito dopo. Terza vittima sacrificale è chi a sto punto? Vanessa, la donna rimasta in casa, che era la sorella grande, diciamo così, e Vanessa però voleva fare la pittrice, e ha fatto la pittrice anche molto famosa, e questa sorella invece si oppone in qualche modo a questa situazione familiare, cioè praticamente fornire supporto emotivo a tutta questa famiglia, fra cui i suoi 3 fratelli, diciamo veri, più la gestione dei 2 fratellastri a turno. Tutti e 2 fratellastri hanno molestato sia Virginia, addirittura il primo ricordo di quando lei aveva 6 anni ed erano al mare, no? E poi ovviamente anche i fratelli altri, di cui uno andò all'università, insomma Toby, e l'altro era ancora piccolo e quindi stava ancora a casa. In questo quadro, diciamo così, molto complesso, a un certo punto si ammala anche suo padre e quindi diciamo che nel giro di 8-9 anni in questa famiglia, come diceva lei, arriva il gatto nero che si porta via qualcuno. Questo è un po' il quadro per capire da quale situazione diciamo così emotiva e di comportamento le 2 sorelle decidono poi di partire per poter fare la loro vita. E questa è la seconda fase: muore il padre, si trasferiscono, aprono casa, eccetera eccetera, e però la morte colpisce ancora, perché in un viaggio in Grecia che fanno con anche Violet Dickinson, anche una delle prime donne di cui Virginia si innamora e che l'aveva sostenuta molto durante la morte del padre, muore il fratello Toby, quindi il fratello amato, quello che aveva portato in casa durante questi 2 anni di vita nuova gli apostoli, no? Cioè questo club, diciamo, dell'università di Cambridge, che erano in gran parte omosessuali, alcuni molto famosi, e quindi questa è la situazione al ritorno della Grecia. Al ritorno della Grecia Vanessa, la sorella più grande, che aveva tentato di aprire un nuovo corso alla loro vita, presa dallo sconforto, accetta di sposare Clive Bell, che era l'unico eterosessuale, diciamo, del gruppo, e quindi Virginia si ritrovò in una situazione di assoluta precarietà. Il suo bisogno di cure materne, come viene detto, nasce proprio da questa continua sottrazione e anche da questo rapporto, diciamo così, con la sorella, che a un certo punto è come se tradisse un patto che loro avevano fatto di una vita in cui avrebbero pensato ciascuna alla propria professione. Infatti Virginia Woolf, già dalla morte del padre, aveva deciso che voleva diventare scrittrice, da qui viene fuori dicendo: io voglio fare la scrittrice e però voglio essere una scrittrice di mestiere, professionista, non voglio essere una scribacchina. Per arrivare a questa possibilità di essere riconosciuta, lei decide di usare gli strumenti tradizionali, diciamo così, e quindi non pubblica da un editore commerciale normale, e il suo primo romanzo, che è appunto quello a cui aveva lavorato per molti anni, e soprattutto scrive per molti giornali, saggi critici, recensioni di libri, eccetera, perché questo gli dava da una parte la possibilità di avere una rendita, due, di avere uno status professionale, tre, di, come dice lei, di leggere con la matita e il taccuino, perché per poter fare delle critiche, quindi di avere un rapporto rispetto alla scrittura tradizionale, nello stesso tempo ai contenuti diversi che poi diventano una specie di palestra dentro il quale costruisce il proprio percorso professionale. Sintesi che finisce con un matrimonio con Leonard Woolf, viene molto ben affrontato dalla tesi, perché nella costruzione, diciamo così, della figura professionale della donna artista, ma che deve essere prima riconosciuta, Alessia fa veramente un lavoro di cucitura fra alcuni aspetti biografici, alcuni temi che lei poi affronterà nei romanzi e alcuni invece aspetti che lei indaga all'interno dei suoi scritti, cioè tipo che cos'è una donna artista, come si pone in modo che abbia un riconoscimento, cioè il suo obiettivo è una donna scrittrice che ha un riconoscimento che però in qualche modo è soltanto formale e professionale, perché i contenuti, i temi di questi scritti, di questi lavori sono completamente diversi, nascono da un altro punto di vista, quello che lei chiama l'outsider. L'outsider è, e c'è tutto un capitolo che lo spiega molto bene, è il soggetto femminile, perché in quanto donna sta fuori dal mainstreaming, che vede quindi le cose da un punto di vista femminile, ma non è ai margini della questione della professione dello scrittore. Ovviamente questa è una cosa condivisa con altre scrittrici come lei, c'è tutta una parte che riguarda il suo rapporto con la Mansfield, che aveva pubblicato dei libri per l'Orgar Press. Poi, come sapete, lei si sposa al secondo gravissimo esaurimento nervoso che dura quasi 2 anni. Però lei appunto decide che ci sono anche in questo tutti gli aspetti che possono essere presi in considerazione, decide che per poter lavorare, cioè che il matrimonio poteva essere un sodalizio, quindi lei si sposa con Leonard perché prima di tutto era sicuramente uno che aveva un altro background, era ebreo, non era ricco, era una persona capace, era stato a lavorare nelle colonie, aveva fatto la direzione, eccetera, però non era sicuramente un intellettuale diciamo di professione, no? E insieme appunto lei pensava che lo status in cui lei avrebbe potuto lavorare e non essere soltanto una vecchia zitella a spese di sua sorella era quello che gli si confaceva di più, e dice anche, sempre ci sono le citazioni che fa anche Alessia, dice appunto: non è possibile per me avere un'attrazione fisica per te, anzi questo aspetto sarà sicuramente secondario, ma questa condivisione di interessi, questa struttura di riferimento abbastanza solida, questa sua grande autonomia all'interno di questo rapporto sono considerati da lei importanti per 2 ragioni fondamentalmente. Una che appunto aveva le cure materne che a lei servivano e quindi il quotidiano gestito con empatia, fiducia, tranquillità, sicurezza e tanti conflitti naturalmente, non è che non ci fossero, e d'altro canto una persona di cui lei, con cui lei poteva condividere un percorso tipo l'Augart Press, cioè la fondazione della casa editrice, e anche un lettore, diciamo così, dai suoi testi prima di darli alle stampe. E tutto l'aspetto invece del femminismo di Virginia Woolf, Alessia lo indaga attraverso innanzitutto una discussione, una citazione molto forte da quelli che sono stati i temi appunto dell'uguaglianza e della differenza, no? Femminismo wolfiano è un femminismo che si esprime in modo ironico, garbato e carino in una stanza tutto per sé, molto più rabbioso invece in Le Tre Guinee. E questo perché? Perché quando scrive Una stanza tutto per sé, lei appena ha pubblicato Orlando, ha avuto un successo commerciale straordinario, è diventata ricca grazie a Orlando, e nel frattempo chiaramente aveva conosciuto Vita Sackville-West, ha avuto una relazione con lei, e quindi è una donna affermata che viene invitata a tenere queste conferenze nel Tempio dell'Istruzione, e quindi scrive questo saggio in modo estremamente garbato e anche molto apprezzato. In realtà quando scrive Le Tre Guinee siamo nel 38, lei nel frattempo ha conosciuto Ethel Smith, che è questa concertista, direttore d'orchestra, compositrice, lesbica dichiarata, che la mette mette al chiodo su tantissimi argomenti, no? L'omosessualità, la condizione delle donne, eccetera. Quindi ha uno sparring partner, si vede dalle lettere, non solo, molto importante, e quindi qui è la guerra è alle porte, nel senso che nel frattempo la questione del pacifismo della Woolf veniva continuamente messo sotto tiro perché bisognava fare la guerra a Hitler, e lei diceva invece il fascismo è dentro le nostre istituzioni, è nella famiglia patriarcale, e non è facendo semplicemente la guerra a Hitler che noi vinceremo il fascismo. E quindi insomma a quel punto decide di scrivere questo saggio così lucido e rigoroso, con appunto la processione degli uomini colti, tutti i guerrafondai, eccetera eccetera, che naturalmente trova all'interno dello stesso circolo di Bloomsbury molte critiche, perché si era arrabbiata, ma aveva anche passati 50 anni, e quindi secondo me se lo poteva permettere molto di più. Quattro capitoli si conclude con l'ultimo pezzo, che è la madre, e il rapporto, diciamo, in qualche modo con il proprio corpo, e il vissuto di Virginia Woolf sul proprio corpo, perché lei era una donna bellissima che era stata ammirata in tutti i salotti e che aveva un fascino incredibile, era uno spirito leggero, ironico, aveva una fantasia incredibile. Se leggete anche soltanto le lettere, che purtroppo in Italia non sono state tradotte tutte, soprattutto non sono stati tradotti i diari, a parte il diario di una scrittrice, che sono veramente una fonte incredibile di riflessioni acute, di un passaggio insomma su quello che stava succedendo. E questo rapporto appunto con l'angelo del focolare, fondamentalmente il suo corpo, il rapporto con la propria percezione di sé, e il rapporto con questa figura estremamente complessa che è in lei, in parte rappresentata, Alessia le chiama le contraddizioni, no? Io le chiamerei le ambivalenze, ma insomma non stiamo a fare i sottili, su questo aspetto della donna artista nel quotidiano, quindi la madre tradizionale, la signora Mrs. Dalloway, la madre nella crociera, no? Queste donne che riescono a, attraverso la dedizione, l'insegnamento materno, l'eredità dell'accoglienza, a fare della propria vita quotidiana un'opera d'arte, che ha un fascino incredibile e a cui la stessa Woolf in qualche modo soggiaceva. E dall'altra parte invece è questo essere in questo modo così l'artista del quotidiano, quindi l'angelo del focolare, come lo chiama lei, lo strumento attraverso i quali noi diremmo il patriarcato, lei diceva, la struttura sociale impedisce alle donne di essere professioniste, di affermarsi nella professione. E quindi, se ricorderete, c'è questa scena in cui lei dice bisogna uccidere l'angelo del focolare con la penna. Questo mi sembrava già molto, non so se voi volete aggiungere o fare obiezioni o domande, oppure passiamo la palla. Io una piccola cosa volevo dire, ma più che altro insomma passarti la palla, non è che volevo molto di più. A me per esempio una cosa mi ha molto colpito leggendo questo libro, che io c'ero alla discussione della tesi di Alessia, ma sinceramente non me la ricordavo più, e non l'avevo letta all'epoca, insomma l'ho letta in questa veste, proprio per questa, diciamo, sua capacità divulgativa, insomma, di questo testo, e del fatto che alla fin fine in Italia, per quanto insomma negli ambiti delle donne, delle lesbiche, della ULF almeno fino a un certo punto fosse quasi obbligatorio leggere almeno qualcosa, ovviamente obbligatorio si fa per dire, mentre adesso mi sembra effettivamente che circoli un po' meno anche nei nostri ambienti, però alla fin fine, come dire, in Italia mi sembra che circoli un immaginario sulla ULF, uno stereotipo, che è quello del genio nevrotico, che nel primo lungo capitolo di questa tesi viene abbastanza smontato. Cioè, a me ha molto colpito leggere, come dire, la fredda costruzione della sua figura pubblica da parte della professione, perché l'immaginario che passa sulla ULF è un altro, cioè è di una donna geniale nella scrittura, ma instabile, che ha bisogno di quest'uomo e gli fa da stampella, che è Leonard Woolf. Su questo poi il film The Awards, che come dire, è stato quello che ha fatto arrivare al grande pubblico l'immagine della ULF, ha accentuato questo tipo di immaginario, perché alla fine questo si vede, insomma, questi grandissimi mal di testa, poi che immagino fossero tutti aspetti che, cioè, che c'era, non è che non ce l'avesse il mal di testa la ULF, però di fatto ci si è costruito sopra un immaginario che per me leggere questo libro ha significato appunto smontarlo e forse capire un pochino di più questo grande questa donna, insomma. Prego. E se posso dire una cosa anch'io, nel senso che questo immaginario smontato da Alessia, che anch'io ho trovato, è come se mi avesse fatto respirare, no? Perché poi alla fine, cioè, il genio è pazzo, no? Quindi la donna geniale, perché appunto è uscita fuori così, è una genia pazza, stop. Ma lei invece era anche una spiritosa, era anche una che cioè nella sua analisi rispetto all'affermazione come donna all'interno della professione, così come l'analisi fredda della società costruita ad uso e consumo degli uomini, no? Che noi oggi chiamiamo appunto ancora patriarcato, lì non si chiamava così, ma perché era un'epoca diversa, ma che veramente si può sovrapporre. E il fatto che lei sia riuscita, insieme al gruppo di artisti in età più giovanile, a farsi ricevere, ha fatto uno scherzo magistrale, si sono fatti ricevere dalla Marina Britannica Reale come delegazione indiana in visita ufficiale. Allora, intanto questo, ma soprattutto lei era vestita da mandarina, da che cosa? Da principe, da uomo, lei era vestita da principe, cioè quindi da uomo, vestiva abiti maschili. La cosa straordinaria era che le donne non potevano entrare all'interno della Marina Britannica, nei luoghi degli uomini, deputati degli uomini. Non solo lei è entrata, ma poi li hanno sbeffeggiati, perché hanno reso pubblica questa cosa. Quindi con una, cioè per la serie, no, con l'ironia vi seppelliremo, cioè lei aveva ben chiare una serie di questioni di come si potessero smontare, peccato che insomma era abbastanza sola, o comunque gruppi delle donne che lei frequentava e con le quali ha comunque costruito rete erano poche, ed erano donne di un certo ceto sociale, no? Perché quelle altre dovevano lavorare, non se lo potevano permettere, no? Però ecco, voglio dire, era una donna geniale, lucida e con una capacità di analisi estremamente scientifica, direi. Ecco, lei aveva proprio fatto un'analisi scientifica della società. Non so se... Diciamo che tutte le donne che l'hanno conosciuta erano affascinate da lei per questa sua grande immaginazione, essere in qualche modo molto presente e molto, diciamo, stravagante da qualche parte, però con grandissima capacità poi di elaborazione, per cui appunto all'epoca era anche un'epoca in cui si scriveva tanto, ma insomma ci sono volumi di lettere, perché effettivamente le aveva, era una donna con tantissime relazioni. Poi ci sono tantissimi episodi, ma per fare semplicemente un elenco, no? Allora lei scriveva tutte le settimane un articolo per il giornale, saggi e recensioni, scriveva saggi, lavorava per 4-5 anni a un romanzo perché li elaborava in una maniera molto complessa. Sapete che della Woolf ci sono dei romanzi, come si chiamano, più tradizionali ed altri invece più sperimentali, no? E, però erano lavori a cui lei dedicava tantissimo tempo. Dirigeva la casa di città e quella di campagna, e aveva una casa editrice che lei leggeva 50.000 manoscritti, ci sono proprio nei suoi diari, no? Che questa qua, leggere i manoscritti, all'inizio facevano i libri a mano, cioè li stampavano loro col torchio, componendo appunto tutte le pagine eccetera, poi faceva i pacchi, le spedizioni, riceveva le richieste, è stata presente in tutti i momenti difficili della vita non solo sua ma anche la sorella, per esempio, ha una storia altrettanto difficile, è una vita complessa, e quando perde il figlio che va in guerra in Spagna e muore pure lui, perché la morte è sempre presente in questa famiglia, lei è l'unica che riesce effettivamente a sostenerla, pur essendo una che passava per quella fragile della famiglia. E poi ha tutte queste relazioni, se vi leggete bene le lettere, la sua storia con Vita, in cui loro vanno in Francia per un periodo, si vedevano a Londra, dovevano mettere d'accordo con Leonard che faceva un po' il riottoso, cioè era una questione estremamente complessa da gestire, e in più appunto scriveva tutte queste lettere, quindi la fragilità e il genio nevrotico è un'immagine assolutamente non realistica, proprio per niente, che lei abbia avuto sicuramente delle gravi crisi. Io ho cercato un po' di enucleare prima i fatti concreti e quando queste crisi sono nate, in cui lei ha tentato anche il suicidio la prima volta, nella seconda crisi, ed è sempre stata assistita dalle donne che erano innamorate di lei, e sicuramente lo era anche Leonard, perché poi si è, fra virgolette, cuccato tutta una serie di assistenze a una donna che aveva nella vita solo un unico obiettivo, scrivere, quando aveva mal di testa e poi dopo le venivano le crisi, le si metteva a riposo, al buio, bere solo latte, non fare le passeggiate, non scrivere, non prendere in mano la penna, e gli si dava il cloraglio. Questa poi è l'immagine di chi ha indagato effettivamente qual era l'aspetto delle crisi della Woolf. Nonostante questo, lei allora per un po' sapeva che per contare con questo giro familiare si doveva sottomettere a questo regime, e cercava di uscirne il prima possibile. L'unica volta in cui proprio è stata molto male è stata nella crisi che ha avuto dopo il matrimonio, l'uscita della crociera. Lì ci ha messo quasi un anno e mezzo, è stato ricoverato in manicomio, ha tentato di buttarsi giù dalla finestra e sentiva le voci. Poi ovviamente molti fanno risalire questo a questo problema della molestia sessuale che le ha subito a più riprese da bambina, poi quando era adolescente le ha subite sua sorella, da questi fratellastri a turno, una volta era Gerald, una volta era Gerard, e quindi diciamo che sicuramente è stata una donna che ha avuto una tempra, secondo me, incredibile, per cui genio sì, ma non nevrotico, sicuramente no. I fatti sono che era stata bombardata la sua casa di Londra, c'era l'invasione dell'Inghilterra, il marito era ebreo, loro avevano già previsto che sarebbero uccisi insieme, perché pensavano che stava arrivando Hitler e l'avrebbe portato in un lager, insomma, o comunque non sarebbero sopravvissuti. E era proprio come se fosse l'ennesimo orrore che si presentava alla sua vita, e che lei ha deciso che non voleva più passarci dentro, cioè che preferiva chiuderla lì. Allora, se non ci sono, come vedo, una ressa, io, allora intanto vi ringraziamo per essere state qui a discorrere, comunque ad ascoltare cose su Virginia Woolf, che come hanno detto le esperte non se ne parla più tanto, ed è un vero peccato, perché io leggendo questo libro e avendo letto solo poche cose, non granché, di Virginia Woolf, l'ho trovata veramente straordinaria, una vita straordinaria e ecco, bella. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never had before, no. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got